Francia, Israele, Stati Uniti, il voto e la politica ai tempi del coronavirus. Benvenuti a una nuova puntata. Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci. Israel's opposition leader Benny Gantz will have his first chance to form a new government. La France vers un taux d'abstention record. À l'origine de cette abstention, la peur d'être contaminé par le coronavirus. And I want to thank Bernie Sanders and his supporters, and together we'll defeat Donald Trump. Welcome back to our place of work. Buona giornata e ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori, buon lunedì da parte mia ma da parte di tutta la squadra di Nessun Luogo Lontano. Con me ci sono Antonio Tagli, Ilaria Sesana, Andrea Macchioni, Valentina Ternullo, oggi in assistenza Danilo Di Trani e in console Gianmarco Ferronato. 349-238-6666 per domande e commenti via SMS e via WhatsApp, Facebook, Nessun Luogo Lontano trattino Radio 24, Twitter, due gli account da tenere d'occhio se amate cinguettare, Nessun Luogo 24, ovvero il mio account che è Giampaz. Cinguettare o commentare su che cosa? Ci sono tre scadenze, tre grandi eventi elettorali e politici che in qualche modo ci fanno fare un mezzo giro del globo, dalla Francia, passando per Israele fino agli Stati Uniti. Da un lato le municipali che si sono tenute ieri in Francia, appunto, il primo turno fu un'estate da un tasso di astensionismo particolarmente elevato. Poi l'incarico dato a Benny Gantz in Israele per formare il nuovo governo e allontanare così lo spettro, pensate, di un quarto appuntamento elettorale nel giro di un anno. E in tempi di coronavirus, come sappiamo e come racconteremo, andare a votare è sicuramente una finestra di rischio piuttosto alta. E poi gli Stati Uniti, sempre a causa del coronavirus, ormai i comizi pubblici non ci sono più, ci si sfida, ci si confronta davanti alle telecamere. Proprio ieri Joe Biden e Bernie Sanders hanno fiorettato, ma in punta di fioretto, non si sono bastonati particolarmente. Questi temi che affronteremo in questa puntata di Nessun Luogo è Lontano. Però Gianmarco, la prima cosa da fare, come ogni buon lunedì, è misurare la temperatura. Il nostro termometro internazionale va a misurare la temperatura dei dossier che stiamo tenendo d'occhio nelle ultime settimane. Ve lo ricordo, sono dossier che diventeranno approfondimenti e puntate di Nessun Luogo è Lontano, o sono aggiornamenti su vicende di cui vi abbiamo dato conto nelle settimane e nei mesi scorsi. È di sabato la notizia della liberazione dopo 15 mesi di Luca Tacchetto e Edith Blaise, finalmente liberi. L'italiano e la canadese, lo ricorderete, erano scomparsi ormai nel lontano dicembre 2018 in Burkina Faso, stavano viaggiando in auto direzione Togo, fermati da alcuni mujahideen, rapiti, poi rivenduti ad altri gruppi legati a formazioni terroristiche. Proprio sabato si è fatta chiarezza, almeno molto parziale per il momento, immaginerete che staranno parlando con l'intelligence in questo momento, non solo francese ma anche italiana e canadese. Si è fatta luce sull'aspetto finale di questa vicenda. I due ragazzi infatti sarebbero riusciti a fuggire dalle mani dei loro rapitori, travestirsi da Tuareg, poi incrociare un'auto civile, farsi accompagnare in una base dell'ONU in Mali e da lì fare ritorno nei rispettivi paesi. Questa vicenda, che si conclude bene, non è l'unica, ci sono altri rapimenti e altri ostaggi che ancora non hanno fatto ritorno dalle loro famiglie. Non c'è notizia certa sui sequestratori. Noi molto spesso abbiamo raccontato delle tante bande jihadiste che animano quel territorio del Sahel tra Niger, Chad, Burkina Faso e appunto Mali. Si aggiunge un elemento di complessità proprio mentre Jeune Afrique, il prestigioso settimanale francese che si occupa di Africa, ha realizzato una interessante mappa interattiva in cui si vede la progressione del virus anche in territorio africano. Ebbene, il Burkina Faso è uno di quelli che inizia a essere colpito. È da ricordare la delicatissima situazione nel paese, con un esercito che, complice la missione internazionale e la Francia, prova a contrastare milizie legate ad Al-Qaeda e allo Stato Islamico, ma vanno ricordati i 700.000 profughi che sono stati il risultato di questa guerra a bassa intensità. Immaginate adesso campi profughi con anche la minaccia del coronavirus. È un cocktail benefico che molti di voi hanno evocato nelle scorse puntate di Nessun Luogo è Lontano, facendo riferimento per esempio anche alla questione siriana o al caso Ebola. Ormai Ebola è stata sconfitta in Congo. Ecco, difficilmente riusciamo a immaginare in un territorio africano dove le strutture sanitarie sono veramente sotto zero, dove si combatte una guerra, pensare di sostenere anche l'impatto del coronavirus. 349-238-6666, arrivano già un po' di messaggi, fra pochissimo ve ne darò conto. Fatemi però fare il punto su quello che sta accadendo sul fronte siriano, l'abbiamo citato brevemente poco fa. Allora, inizio mese vi avevamo dato conto del cessate il fuoco, di quell'accordo raggiunto tra Erdogan e Putin dopo le gravissime perdite a suon di due cifre subite dall'esercito turco, che cercava di arginare l'offensiva di Assad supportata dall'aviazione russa. Ebbene, si è giunto non soltanto un cessate il fuoco, ma anche un'idea di condividere una serie di pattugliamenti lungo l'autostrada M4. L'autostrada M4 è quella che va dalla costa, zona di Latakia, fino ad Aleppo. L'abbiamo ribattezzata la Torino-Trieste della Siria, mentre la M5 è la loro autostrada del sole. Insomma, queste doppie direttive fatta a croce che permette di dare linfa anche economica all'intero paese. Ebbene, negli accordi tra Mosca e Ankara vi sarebbe un pattugliamento congiunto, in sostanza una sorta di cessate il fuoco controllato da ambo i fronti. Il problema cos'è stato? Una scena già vista in occasione di quando i mezzi blindati statunitensi lasciarono quella zona. Vi ricordate quelle incredibili immagini in cui i siriani prendevano a sassate i convogli blindati? Ecco, è accaduta la stessa cosa, ma stavolta contro i russi, accusati non di lasciarli ma di rimanere lì. Insomma, parte dei siriani della zona di Idlib non vuole assolutamente una presenza russa sul terreno, il che evidentemente, come immaginate, va a aggiungere complessità a quell'alleanza Damasco-Mosca che per il momento alita ancora alle porte di Idlib. Poi andiamo in Egitto, perché è notizia di questa mattina che sarebbe stata anticipata ad oggi l'udienza per Patrick George Zaki, lo studente egiziano detenuto in carcere egiziana appunto da più di un mese. Lo ricorderete, era stato accusato di aver pubblicato notizie false sui social, aver minato l'ordine pubblico, aver promosso la violenza, il terrorismo, aver tentato di rovesciare il governo. Lo studente era studente anche dell'Università di Bologna, era tornato al Cairo per andare nella sua città natale Mansura. Questo era il 7 febbraio, all'aeroporto del Cairo era stato arrestato. Da lì un coinvolgimento, una mobilitazione non soltanto degli studenti ma di tante organizzazioni al Cairo per fare luce su quella vicenda. Purtroppo devo darvi conto di quella che è stata una restrizione negli ultimi giorni delle visite, degli aiuti che si potevano introdurre in carcere, banalmente il sapone per poter garantire adeguata igiene, perché le autorità egiziane hanno dato un po' una stretta dopo che nei giorni passati invece anche i familiari hanno potuto vederlo. Perché parliamo di questo caso? Perché molto spesso vi raccontiamo di come il regime egiziano, ormai da anni guidato dal generale al-Sisi, abbia compiuto una stretta sui diritti civili umani, molto spesso ricorrendo a incarcerazioni preventive e senza alcun processo. È un po' la punta di un iceberg che continueremo naturalmente a raccontarvi. L'ultimissima notizia del nostro lungo termometro internazionale, ma è così, è lunedì, andiamo a recuperare anche i fatti salienti o quelle notizie che hanno acceso la nostra curiosità avvenute nel weekend. Andiamo in Arabia Saudita, perché lì il regime di Mohammed bin Salman sta continuando, al pari di quello di al-Sisi, a effettuare delle purghe. Certo, numericamente assolutamente più ridotte, soprattutto punta in altro, perché vi avevamo dato conto anche dell'arresto di tanti membri illustri della famiglia reale. Ebbene, adesso si è avuta notizia dell'esecuzione di centinaia di arresti di ufficiali governativi, tra cui anche personale di sicurezza e membri delle forze armate. Ancora non è possibile fare un quadro del perché, delle motivazioni di questa giro di vite incredibile che ha voluto Mohammed bin Salman, ma ci torneremo e sicuramente in settimana. Allora, 349-238-6666, vi sono un po' di messaggi, c'è qualcuno che ironicamente si chiede se i russi, facendo riferimento alla presenza appunto di Mosca in Siria, siano o meno immuni al coronavirus. Qualcun altro: ci sono ipotesi sull'origine del malcontento contro i russi per anni di bombardamenti contro una forza percepita come di occupazione, oppure perché Erdogan foraggia posizioni neo-ottomane fra i locali. Promettiamo un nuovo approfondimento anche su questo aspetto. Il mondo continua a correre, sempre avvolto in quella bolla in cui ognuno di noi è rinchiuso per l'emergenza coronavirus, e però nel frattempo bolle diverse, evidentemente a seconda anche delle reazioni dei vari governi. Però nel frattempo il mondo sta girando e quindi continuiamo a raccontarvelo. Così come il mondo gira, è girata anche la politica per Benjamin Netanyahu, e adesso è il momento di andare a Gerusalemme. Sono stato chiamato per formare un governo di emergenza, senza esitazioni, senza rinvii. Sarà un governo straordinario di durata limitata. Insieme combatteremo da buoni cittadini. Ora dobbiamo mettere la politica da parte. La voce che avete sentito è quella di Benny Gantz, non appena è stato investito dal presidente Rivlin. Ha ricevuto nelle scorse ore l'incarico di formare il governo e sarà un compito piuttosto arduo. Ve lo ricordavo pochi istanti fa, 3 tornate elettorali nel giro di meno di un anno, il grande spettro che si agitava all'orizzonte, che credo che abbia fatto dormire sonni non troppo tranquilli al presidente israeliano, era proprio questo. Immaginate di tornare a un appuntamento elettorale con la minaccia del coronavirus e un paese al momento che non riesce a produrre e a far scaturire dalle dinamiche elettorali un governo degno di questo nome. Così come inedita, oltre alla situazione politico-sanitaria, è quella strettamente politica, perché a questo punto si delinea all'orizzonte una stranissima alleanza, pensate, con il supporto persino del partito filo-arabo, qualcosa che era assolutamente impensabile fino a qualche giorno fa. Gantz deve provare a governare con intanto una maggioranza risicatissima, perché stiamo parlando di 61 seggi sulla maggioranza sul totale di 120, quindi, come dire, veramente risicata. Dicevo, maggioranza inedita e stranissima, deve lavorare con il partito degli ultra-ortodossi e con la lista araba unita. Che governo potrebbe essere? Un governo che mette insieme gente che fondamentalmente si detesta, e qua evidentemente la riduciamo ai minimi termini. Giro immediatamente la domanda a Nello Delgato, giornalista dell'Agenzia Giornalistica Italia da Gerusalemme. Nello, buongiorno, ben ritrovato nel suo luogo lontano. Salve a voi. Allora, com'è possibile, amici nemici in casa, questo strano governo nasce sotto i peggiori auspici, perché è un cocktail che nessun chimico politico avrebbe potuto pensare di realizzare, eppure è stato fatto. Quante chance, scusatemi, gli dai, Nello Delgato? Ma non si sa, io non sono un bravo scommettitore, anche se mi piacerebbe farlo, perché potrei scommettere e vincere molto. Che la situazione è talmente difficile e complicata che, insomma, si potrebbe vincere in qualsiasi modo. Sì. Diciamo che ha piuttosto più l'odio della politica, nel senso che è più il sentimento anti Netanyahu che ha unito tutti quanti, che invece un discorso politico di emergenza e dignità. Perché questo discorso politico di emergenza e dignità era già stato fatto anche l'altra volta e nessuno ha voluto partecipare. A maggior ragione adesso, dopo la questione del coronavirus, dopo che è scoppiata l'emergenza, il presidente Rivlin ha chiesto a tutti, insomma, di stare insieme, di fare appunto questo governo di unità, e a Bilberto Netanyahu ha anche proposto, soltanto sui media però, ai suoi oppositori di fare questo governo, i quali hanno anche accolto l'invito. Questo sabato sera, se non chiede la notte, sabato e domenica, approfittando dell'emergenza, approfittando di una nuova ordinanza, della prima vera ordinanza restrittiva grossa che Netanyahu aveva diffuso attraverso i media sabato sera, il ministro della giustizia ha detto che, insomma, il processo di Netanyahu, in sostanza, che deve cominciare domani, quello che deve imputare in 3 casi penali, è stato rinviato il 24 maggio. Questo ha indispettito. Sì. Nello Delgato, permettimi, ti interrompo perché la linea non ci sta soccorrendo. Proviamo a richiamarti e a ristabilire una comunicazione un pochino più efficace. Faceva riferimento, Nello Delgato, a quello che è lo spostamento del processo, voi sapete, l'imputazione, l'accusa di corruzione per Benjamin Netanyahu, accusa in cui è coinvolta anche la moglie, che ha minato decisamente il percorso politico che ha portato fino a qua, lo dicevo, 3 elezioni per il momento. Intanto, mentre recuperiamo il collegamento con Gerusalemme, do conto delle vostre opinioni, dei vostri messaggi che arrivano al 349-238-6666. In realtà il filo rosso che lega tutto ciò, le puntate di oggi, sono tre appuntamenti politici elettorali, entrambi sullo sfondo del coronavirus. C'è qualcuno, un ascoltatore, che chiude intanto con un messaggio che è molto patriottico: viva l'Italia. Ma al di là di questo, dice: sono convinto dell'idiozia, uso un termine particolarmente forte, di chi governa le potenze dell'Occidente. Da Macron, Johnson, Trump pensano di combattere il virus come un terrorista qualunque, con slogan da bambini dell'asilo, spietatissimo. Questo ascoltatore, che chiude invece con un plauso per il governo italiano, pur rimarcando le indecisioni varie nell'arco delle settimane, non sa cosa accadrà nel resto dell'Europa, così un ascoltatore. Allora, altri messaggi al 349-238-6666. In realtà qualcuno mi chiede ancora conto di quella che è stata l'efficace metodo della Corea del Sud, Singapore e Taiwan al coronavirus, anche con quello che è stato un tracciamento digitale. Intanto abbiamo recuperato Nello del Gatto. Beh, innanzitutto mi permetto di ricordare semplicemente quello che è stato invece dal punto di vista politico una grande virtù della Corea del Sud, con un'opposizione assolutamente virtuosa che ha aiutato l'opposizione a prendere decisioni molto molto in fretta. Detto ciò, torniamo a Nello del Gatto, a Gerusalemme, perché qui avremo ancora una volta quelli che erano all'opposizione che andranno ragionevolmente al governo sullo sfondo di un processo rimandato. Però Nello, sta funzionando di più l'avversione per Netanyahu o la paura quando diventa un collante per il coronavirus? No, sicuramente la versione per Netanyahu, anche perché noi non siamo sicuri che questo governo possa andare avanti e che alla fine non facciano un governo di unità e di emergenza. Perché se è vero che anche le ultime resistenze dei tre di 15 membri della lista araba unita hanno accettato di sostenere Gantz, perché non ci dimentichiamo che Gantz comunque ha appoggiato il piano di Trump soprattutto nella parte dell'annessione della Valle del Giordano, e questo era un grande limite. E anche quelli del partito russofono, come dicevi tu, dell'estrema destra, insomma, non tanto ortodossi, ma comunque della destra ebraica, che non volevano stare con gli arabi, pure hanno accettato dando le loro 7 seggi. Dall'altro però ci sono dei membri del partito di Gantz che non accettano questo. Quindi oggi si è vissuta questa surreale riunione al Parlamento, nella quale praticamente hanno giurato i parlamentari che, per rispettare la regola imposta da Netanyahu per la questione del coronavirus, dei massimo 10 persone in aula, entravano in 3 in 3 per giurare. Ora non si sa se potranno mai riunirsi tutti quanti, visto che stasera è previsto un altro annuncio di Netanyahu, potrebbe usare delle misure all'italiana, perché noi al momento possiamo uscire di casa. È vero che le scuole sono chiuse, è vero che sono chiusi i ristoranti, però insomma possiamo uscire. Probabilmente questa sera invece decideranno una chiusura all'italiana. Ciò significa che anche i lavori del Parlamento non potranno andare avanti. Certo. Gantz ha un incarico di 4 settimane. Se non riuscirà ad andare in Parlamento per farsi votare, dovesse riuscire ad andare, ma i suoi non dovessero votarlo, perché almeno si parla di almeno 2 o 3 persone che non lo vogliono votare. Considerate che sulla carta lui avrebbe 62 voti, perché uno della sinistra già si è chiamato fuori. Ecco, allora c'hai dato una notizia, ecco, perfetto. Ecco perché 61. Ecco, Nello del Gatto, al di là di questa, come dire, appoggio anche magari inaspettato che arrivava dalla sinistra, come si dovrebbero porre i parlamentari della lista araba unita? C'è un ascoltatore peraltro che scrive sempre al 349-238-6666 se non sia per la lista araba un definitivo sdoganamento politico. Alla fine è vero che promettono un appoggio dall'esterno, ma quasi una nobilitazione, no? Per entrare nell'arena politica, e questo sarebbe un colpaccio per quelle fronde invece di Israele che assolutamente vedono come fumo negli occhi l'ingresso nella scena politica a tutti gli effetti degli arabi israeliani. Potrebbe essere una buona occasione per loro, secondo te? Ma questo sicuro, anche perché oggi per la prima volta è entrata in Parlamento una donna con l'hijab, quindi insomma questo certamente è un segno. È chiaro che i parlamentari, tra l'altro la lista araba ha guadagnato, è stata l'unica che ha guadagnato parecchio, perché da 13 è arrivata a 15 seggi in queste elezioni, quindi insomma ha dimostrato che comunque c'ha un suo seguito. I cittadini arabi israeliani sono cittadini israeliani a tutti gli effetti, che si sentono per certi versi cittadini di serie B. Sì. Sono vicini ovviamente alla causa palestinese. Questo però non significa che nel momento in cui finalmente verrà fatto uno Stato palestinese se andranno a vivere in Palestina, perché è chiaro che la qualità della vita che hanno in Israele è sicuramente maggiore di quella che potrebbero avere in Palestina. Certo. In questo periodo si però registra una specie di ritorno alla Palestina per alcune famiglie arabe che preferiscono mandare le loro figlie a sposarsi in Palestina. Questo perché comunque i legami sono molto stretti e perché comunque secondo loro i costumi in Israele non sono così buoni. Non ci dimentichiamo che ci sono delle cittadine come per esempio Nazareth, nel nord del paese, che sono a totale maggioranza musulmana. Il paese è un paese difficile di gestione proprio per la vita comune di tutti quanti. È chiaro che un partito arabo forte può far solo bene a questo paese, e al momento così è difficile, però è molto difficile che, seppur facciano il governo, qualcuno di loro entri in come ministro. Più probabile che diano un appoggio esterno. Certo, fra l'altro non vedo particolarmente difficile anche una presa di posizione da parte appunto della lista araba unita su quelle che sono quelle proposte fortissime fatte da Netanyahu. Gantz è andato un po' a ruota all'annessione del Giordano, insomma lì si va a infliggere un durissimo colpo evidentemente ai palestinesi, ma staremo a vedere. La politica israeliana è complessa, così come è complesso quel territorio. Ringrazio tantissimo Nello Del Gatto, giornalista di Agi, segue ormai le vicende israelo-palestinesi da anni. Nello, buona giornata e buon lavoro. Grazie a voi, arrivederci. 349-238-6666 per i vostri commenti su questa prima pagina di Nessun Luogo Lontano. Lo dicevo, sono tre pagine, tre viaggi, o meglio tre tappe di uno stesso viaggio in cui politica e tornata elettorale si intrecciano in maniera indissolubile con quella che è l'emergenza del coronavirus, in alcuni paesi già in fase eclatante, altri paesi invece che si preparano a sostenere questo impatto. Qualcuno scrive: in tempi di crisi come questi, anche in Israele, un governo formato da alleanze quasi agli antipodi potrebbe funzionare, mette da parte metterà da parte l'aspetto politico incentivando quello economico e sanitario. Così l'ascoltatore, che in qualche modo omaggia quelle visioni che in questo periodo di crisi vi sono in tanti stati del mondo, unità nazionale. Questa è un po' evidentemente l'auspicio che arriva da più parti. Nel frattempo mi segnalano che un'agenzia è stata appena battuta. Ho informato i leader del G7 che ho proposto di introdurre una restrizione temporanea per tutti i viaggi non essenziali verso l'Unione Europea, 30 giorni da prolungare se necessario. Così la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen su Twitter, dando corpo a quella che era una voce che girava ormai da alcune ore. Ci si aspettava una risposta europea e unitaria in questo senso, in un continente dove ancora, ai noi, come segnalavano alcuni di voi, gentili ascoltatrici e ascoltatori, c'è qualche leader, qualche capo di governo che continua a attuare pratiche totalmente difformi, e certamente questo non aiuta la risposta del virus. Allora, tra pochissimo vi faccio sentire l'informazione finanziaria, sentiamo come vanno le borse e poi vi lascio con una strana domanda. Adesso ci penso, perché la risposta esattamente non sarà facilissima. Un ascoltatore che mi ha appena scritto: come mai voi comunisti smaniate per gli arabi? Ci penso, eh. Siamo stati colpiti, ma siamo consapevoli. Siamo distanti, ma siamo uniti. Siamo italiani. Venerdì 20 marzo, ore 11, alza il volume della tua radio. Esci sul balcone, sventola un tricolore o ciò che ti fa sentire italiano e canta. Canteremo tutti insieme. Tira fuori tutto. La speranza, la voglia e la forza e l'orgoglio di essere italiani, per sentirci più vicini. Per la prima volta nella storia, tutte le radio unite sono con te. La radio per l'Italia. E ricorda, andrà tutto bene. Nessun luogo è lontano. Ancora buona giornata, buon lunedì ascoltatrici e ascoltatori, questo è Nessun Luogo è Lontano, con me c'è tutta la squadra di Nessun Luogo in più oggi, Danilo Di Trani in assistenza, Gianmarco Ferronato è in console. Per raccontare che cosa? Tre appuntamenti politico-elettorali, entrambi profondamente legati a quella che è l'emergenza del coronavirus e come i candidati stanno proponendo, stanno facendo proposte per fronteggiare l'emergenza, e come invece chi è in carica, chi è al governo, sta tentando di arginare l'emergenza con linguaggi, con lessico, con risposte assolutamente alterne, come anche voi al 349-238-6666 state ben sottolineando. Qualcuno mi chiede se posso, se possiamo ripetere i provvedimenti messi in atto nella Corea del Sud. Beh, innanzitutto tantissimi tamponi, isolamento immediato, hanno una visione molto gerarchica anche dell'economia, delle aziende, c'è un senso della collettività diversissimo nell'estremo oriente. E fra l'altro mi collego così a un altro messaggio di un ascoltatore che fa un plauso alle nostre manifestazioni, nostre intendo degli italiani che si affacciano al balcone, che esprimono solidarietà. Allo stesso tempo questo ascoltatore sottolineava, e credo ha molto bene ragione, che al di là di questo, che è puro folklore, che è pura simpatia, ma nel senso etimologico, no, del sentire insieme, forse ci vorrebbero misure più rigorose. A me continua a stupire vedere così tanta gente in giro per le strade di Milano e soprattutto ancora nei parchi, quindi forse oltre a queste manifestazioni così folcloristiche anche maggior senso di responsabilità. Quello che non è mancato nemmeno alla politica sudcoreana, e torno alla risposta, quando ricordavamo con Giulia Pompili, fra l'altro giornalista del Foglio, come l'opposizione si sia assolutamente messa a disposizione, al servizio del governo. Detto ciò, proviamo a aprire quella che è la seconda pagina di Nessun Luogo Lontano, e tocca andare. Gianmarco, portaci in un lampo negli Stati Uniti. Continua la lotta all'interno del fronte democratico per andare a stabilire chi sarà lo sfidante di Donald Trump. Joe Biden e Bernie Sanders ieri, dibattito televisivo, studio praticamente vuoto, ormai non vi sono più comizi. Dicevo all'inizio di questa puntata, un dibattito che, come dire, nemmeno in punta di fioretto, quasi in alcune situazioni sembravano scambiarsi delle carezze, segno che evidentemente l'uno e l'altro vogliano flirtare con l'elettorato dell'avversario. Il dibattito si è svolto a Washington DC, non a Phoenix come previsto inizialmente, dicevo, studio senza pubblico. Indovinate di che cosa si è parlato? Allora, si è parlato anche di Social Security, si è parlato di aborto, delle armi, della guerra, del ritiro dei militari statunitensi, ma soprattutto di coronavirus. Entrambi hanno puntato il dito contro l'amministrazione Trump, accusata di mal gestire questa emergenza, e hanno proposto i loro modelli di sanità pubblica. Sentite innanzitutto Bernie Sanders che cosa ha detto. This is an unprecedented moment in American history. Now, I obviously believe in Medicare for all. I will fight for that as president. Questo è un momento senza precedenti nella storia americana, credo nel Medicare per tutti e come presidente combatterò per quello. In sostanza quello che lui propone è un single payer health care system, cioè un modello sanitario in cui la spesa sanitaria è centralizzata nelle mani di un solo soggetto. Sentite Biden come gli ha risposto. And with all due respect to Medicare for all, you have a single payer system in Italy. It doesn't work there. It has nothing to do with Medicare for all. That would not solve the problem at all. E così, con lo sfondo del coronavirus, Joe Biden è andato ad attaccare quello che è il sistema sanitario nazionale centralizzato italiano, dicendo: vedete, in caso di emergenza non funziona. Buongiorno, ben ritrovata a Nessun Luogo Lontano ad Arianna Farinelli, è l'autrice di Gotico Americano, l'abbiamo già ospitata, politologa, lo ricordo, docente anche al Baruch College della City University of New York. Professoressa Farinelli, buongiorno, ben ritrovata. Buongiorno. Allora, secondo lei c'è un fronte, un attore politico, ma partiamo da quello democratico, Bernie Sanders o Joe Biden, più resistente all'emergenza da coronavirus, o sono, come dire, tutti candidati e presidenti piuttosto immuni da questa emergenza? Allora, tutti i politici sono in qualche modo vulnerabili al coronavirus, e questo vale sia per quelli che vogliono essere eletti, e quindi Biden e Bernie Sanders, e anche per quelli che sperano nella rielezione, e quindi Donald Trump. Diciamo che fra i due fronti, quello democratico e quello repubblicano, il più vulnerabile rimane quello repubblicano, perché solo fino a un mese fa la rielezione di Trump sembrava diciamo un fatto certo. L'economia cresceva all'1,9%, la disoccupazione era al 3-4%, ma ora è tutto diverso, sembra quasi una vita fa. Perché Trump viene moltissimo criticato per aver minimizzato l'emergenza del coronavirus. Aveva detto che i casi erano soltanto 15 e che sarebbero arrivati in pochissimi giorni a zero. Contiamo adesso migliaia di casi. E poi per la mancanza di tamponi. Trump aveva detto che chiunque volesse ricevere un tampone poteva farlo. E poi il fatto che l'economia rischia il tracollo. Abbiamo visto questa mattina che il Dow perde più del 5% e sì. l'S&P 500 anche viaggia intorno a quei numeri per le cattive notizie dell'economia cinese, e questo malgrado la Fed abbia tagliato il tasso di interesse vicino allo zero e abbia promesso un quantitative easing per miliardi di dollari sui titoli di Stato americani. Quindi Trump è molto molto vulnerabile. Invece nel fronte democratico Bernie Sanders propone una sanità pubblica, Biden appunto gli risponde: vedi che in Italia non sta funzionando. In realtà quello che vuole fare Biden è una rivoluzione, perché qui ci sono, c'è il sistema delle assicurazioni private e vuole eliminare quel sistema, che però impiega 16 milioni di persone, e passare immediatamente ad un sistema pubblico. E per fare questo ci vogliono trilioni di dollari, che adesso non è esattamente il momento giusto, evidentemente, per una transizione così complessa di un sistema, fra l'altro culturalmente anche ormai radicato evidentemente nelle menti degli americani. E poi però c'è un altro radicamento: la politica statunitense ci ha abituato a figure maschili, attori maschili. A un certo punto però Biden, sentite che cosa ha detto. If I'm elected president, my cabinet, my administration will look like the country. And I commit that I will in fact appoint pick a woman to be vice president. E così dall'annuncio: se sarò eletto presidente, la mia amministrazione rappresenterà l'intero paese, il mio governo rifletterà le anime del paese e mi impegno a nominare una donna come vicepresidente. I maligni, mi associo ai maligni, professoressa Varinelli, dicono che l'annuncio di una vice donna è già un tentativo di ingraziarsi direttamente la Warren e pigliarsi anche i voti, insomma. Non si tratta di malignità, si tratta proprio di un dato di fatto. Nemmeno malizia politica, dice, è un de facto, no, diciamo. No, infatti Elizabeth Warren non ha ancora fatto l'endorsement a nessuno dei due. Si pensava che avrebbe fatto l'endorsement a Bernie Sanders perché su molte politiche convergevano. In realtà, secondo voci che arrivano proprio dal comitato elettorale della Warren, lei non pensa che Bernie Sanders possa battere Donald Trump. Tra l'altro Bernie Sanders un anno fa, e questo lei l'aveva reso noto in un dibattito televisivo al Vitriolo, aveva detto: una donna non può battere Trump. Quindi diciamo che le elettrici di Elizabeth Warren sono anche ostili a Bernie Sanders per questo motivo. Tra l'altro, durante il dibattito di ieri sera, dopo che Joe Biden aveva detto: prenderò una donna alla vicepresidenza, anche Bernie aveva detto: probabilmente farei la stessa cosa. E nella storia degli Stati Uniti noi abbiamo avuto soltanto due donne candidate alla vicepresidenza. Una era Geraldine Ferraro, che era una titolo americana in tandem con Walter Mondale nel 1984, poi lui perse contro Reagan, e poi nel 2008 Sarah Palin, ma John McCain perse contro Obama, quindi non abbiamo mai avuto vicepresidenti donne. E nel congresso americano ci sono solo il 20% dei membri del congresso è donna. Certo, e questa è la voce, l'analisi e il commento di Arianna Farinelli, che va a, come dire, a sottolineare quella che è anche una cristallizzazione della politica americana, in cui assolutamente non c'è rappresentanza adeguata per le donne. Lo ricordo, la Farinelli ha scritto Gotico Americano, è politologa, insegna al Baruch College della City University of New York. Abbiamo 30 secondi, quindi professoressa Farinelli, mi è gioco forza chiedere di fare sfregare la sfera di cristallo tra Sanders e Biden, ormai chi vede come papabile candidato, perché insomma tra poco ci siamo. Sì, è difficilissimo per Bernie raggiungere a questo punto la quota di delegati di Biden. E comunque lui ieri sera ha, diciamo, cercato di ingraziarsi anche molti degli elettori, dei sostenitori di Bernie Sanders, dicendo per esempio, questa è una novità, che anche lui supporta le università pubbliche completamente gratis per gli studenti, e questo è un modo per accattivarsi i giovani che fino a questo momento sono stati dalla parte di Bernie Sanders. Certo, c'è anche astuzia, sono anche armi, ma io vedo, professoressa Farinelli, poi la devo veramente lasciare al suo lavoro, anche un po' un appiattimento sul fronte democratico. Ecco, non lo vedo particolarmente ficcante nelle proposte, anche questi colpi di fioretto ormai sempre più come dire, no? Meno pericolosi, perché in vista c'è, in gioco c'è tanto, e non si vuole affondare il colpo sull'avversario per non inimicarsi quelli che sono i suoi sostenitori. Mi chiedo con quanta forza potranno affrontare un Donald Trump che si farà sicuramente più agguerrito. Ci risentiremo certamente. Certo. Lo ricordo, la professoressa Arianna Farinelli, vi consiglio il suo libro in questi momenti in cui si sta a casa, lo sapete, è un'ottima idea anche leggere magari di vicende americane. Questo è un saggio, scusate, è un romanzo, ma come dire attinge tanto anche alla politica americana. E quindi intanto grazie mille professoressa, buona giornata, grazie, alla prossima. Noi Gianmarco facciamo una piccola pausa, andiamo a sentire come vanno la viabilità, le strade italiane. Prima però fammi rispondere, tienimi qua, fammi rispondere, perché c'era un ascoltatore che chiedeva: ma notizie dall'India, non arrivano i giornali indiani? Per adesso danno i numeri bassissimi, 110 sarebbero i casi positivi nei vari stati dell'India, ma evidentemente è una di quelle nazioni in cui c'è un enorme buco nero, perché ancora non si sta monitorando il fenomeno. Dicevamo, viabilità. Nessun luogo è lontano. Buona giornata e ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori. Ancora una volta, se vi siete sintonizzati solo adesso, Nessun luogo lontano vi sta raccontando tre grandi eventi elettorali e politici funestati dall'emergenza coronavirus, mentre nel frattempo cerca di darvi un aggiornamento su come tanti altri paesi, chi più lontano, chi molto più vicino all'Italia, sta reagendo. L'agenzia di Stato turca Anadolu ha appena battuto questa notizia: il governo ha ordinato la chiusura di tutti i teatri, cinema, sale concerti, campi gioco per bambini, quelli al chiuso, le saune, le palestre, le spa, a partire dalla mezzanotte di quest'oggi. Segno appunto che sostanzialmente con l'avanzare del coronavirus le misure che vengono passo dopo passo intraprese alla fine sono le stesse. Un ascoltatore, Stefano da Vittorio Veneto, esprime tutto il suo scoramento, ma anche a questa domanda, come francamente quella per la quale a noi comunisti piacciono così tanto gli arabi, secondo lei, mi chiede, perché tanti paesi, Stati Uniti, Regno Unito, Francia, ce l'hanno con l'Italia? Che male abbiamo fatto? Temono di riconoscere che alla fine, per una volta, abbiamo fatto la cosa giusta. Io spero che alla fine la nostra società venga premiata, così vi restituisco anche lo sgomento di questo ascoltatore. Io mi sento solo di dire una cosa, che come abbiamo spesso sottolineato in queste puntate in Nessun luogo lontano, c'è stata una risposta politica da parte di alcuni stati all'emergenza coronavirus che è stata puramente politica, mentre evidentemente la risposta deve essere politica e sanitaria. Quando utilizzi il coronavirus strumentalmente come una qualsiasi altro dossier e lo utilizzi per fini elettorali, evidentemente la cosa ti sta scappando di mano. C'è qualcun altro, e peraltro è il nostro affezionato ascoltatore che ci scrive dagli Stati Uniti, che fa una scommessa arditissima, dice che la vice di Biden sarà Michelle Obama. Se fosse così, gentile ascoltatore, una volta che questa situazione sarà finita, mi riprometto di venire a New York e abbracciarla, perché, e offrirle un drink, come si direbbe, perché in realtà quasi tutti gli analisti sostengono che sia assolutamente la Warren quella più in lizza. Detto ciò, insomma, accentiamo la scommessa. Ripeto, in questo periodo è molto difficile anche per noi che siamo osservatori della grande politica internazionale provare a fare previsioni. Le cose cambiano immediatamente dal punto di vista geopolitico ed economico, e quindi proiettarsi da qui a una settimana risulta davvero davvero difficile. È un po' più facile invece stare in Francia, andare a Parigi, per capire che cosa è accaduto ieri. Una giornata assolutamente surreale. Perché? Perché si è votato per le municipali appunto in Francia. Allo stesso tempo un voto, un appuntamento disertato, perché le urne erano praticamente vuote con percentuali bassissime, però la gente che andava sui parchi a divertirsi, quasi un comportamento un po' schizofrenico della società francese. Chiediamo lumi, chiediamo di illuminarci per capire che cosa è accaduto meglio. Danilo Ciccarelli, corrispondente da Parigi. Danilo, buongiorno, benvenuto a Nessun luogo lontano. Buongiorno, buongiorno a voi. Allora, in Francia 5.400 casi, 120 morti, 900 contagi in più, 28 decessi in più rispetto a ieri, sta montando evidentemente, ma sono numeri che già noi in Italia abbiamo visto, per cui tristemente niente di nuovo. Allo stesso tempo la politica e la società francese hanno risposto in una maniera, io mi azzardo a dire, scomposta. Primo turno delle municipali, si dovrebbe andare al secondo turno domenica prossima, Macron parla stasera alle 20. Aiutaci a capire, perché è davvero un rebus notevole. Sono totalmente d'accordo con te, a quanto pare ieri sono bastati due raggi di sole per riempire parchi e spazi pubblici a dispetto delle urne che sono state disertate in massa. Il tasso di astensione è stato un record, è arrivato all'incirca al 56%. Era un dato prevedibile, nonostante gli appelli fatti sia dallo stesso presidente Macron, ma anche da tutti gli esponenti del governo, delle altre forze politiche, di andare a votare, i francesi hanno deciso appunto di non recarsi alle urne. In serata il ministro della Sanità, Olivier Véran, ha letteralmente, cito testualmente, ha scongiurato i francesi di rimanere a casa. Tra l'altro l'atteggiamento è stato fortemente criticato anche dalla stampa francese. Cito come un esempio su tutti il quotidiano Libération, che questa mattina è uscito in prima pagina con il titolo "Lo stato di incoscienza" sopra un'immagine scattata davanti al Sacro Cuore di Montmartre, stracolmo di persone. E i francesi a quanto pare ancora faticano nel rendersi conto. Io fino a ieri, girando per le strade di Parigi, non si vedeva nessuno con mascherine addosso. Oggi sono uscito questa mattina, velocemente si comincia a vedere qualcuno, ma le strade sono comunque piene. Macron questa sera parlerà per la seconda volta in quattro giorni sulla crisi del coronavirus. Il paese attende degli annunci ancora più radicali, che dovrebbero portare a un'ulteriore stretta sulle misure già attuate. Tra i principali annunci, la Francia resta con il fiato sospeso per sapere se Macron deciderà o meno di imporre il confinamento ai cittadini, seguendo un po' l'esempio italiano. Questa mattina l'entourage del presidente ha smentito questa ipotesi. Diciamo che la Francia sta mettendo in atto una strategia progressiva, grazie anche al fatto che ha, come sappiamo, qualche giorno di anticipo rispetto a un paese come l'Italia, quindi ha avuto modo di preparare gli ospedali. Vedremo se saranno abbastanza preparati. Quanto efficacemente. Però d'altra parte, perdonami Danilo Ceccarelli, è vero che hanno avuto tempo, osservando il caso ormai di scuola, prima quello cinese, poi quello, ai noi, italiano, però sentite poche ore fa che cosa ha detto Macron. J'ai interrogé les scientifiques sur nos élections municipales. Ho interrogato la comunità scientifica sulle municipali. Ritengono che non ci siano controindicazioni a che i francesi, anche quelli più vulnerabili, si rechino alle urne. Ho chiesto al primo ministro di consultare le parti politiche e tutte hanno espresso la stessa volontà. Evidentemente Danilo Ceccarelli, giornalista di base a Parigi, fa il corrispondente da lì, ben conosce le vicende francesi. Dichiarazioni di questo tipo, adesso non sappiamo Macron cosa dirà alle 20, ma evidentemente ci sarà una stretta. Diciamo che è, fra l'altro, un punto di domanda enorme sul secondo turno che si dovrebbe tenere per legge domenica prossima, e sto parlando delle municipali, e lascia un po' spaesati gli elettori e i cittadini. Ti chiedo, perché siamo in chiusura, Danilo, un commento sui risultati invece politici, perché sembrano passati in secondo piano. Bene i Verdi, la Hidalgo a Parigi socialista, bene. Come fotografare questo primo turno e che valenza ha? Anche in questo caso era ampiamente prevedibile. La Repubblica Marche, per la Repubblica Marche è stata, possiamo anche dirlo chiaramente, una vera e propria sconfitta. Il partito di maggioranza di Macron ha pagato un po' la sua giovane età rispetto ad altri partiti, come penso soprattutto ai repubblicani e al partito socialista, che godono di una maggiore presenza territoriale, cosa che invece a Marche assolutamente non ha. Da notare soprattutto, io sottolineerei il caso di Parigi, in cui c'era molta attesa per questa sfida tra il sindaco uscente, la socialista Anne Hidalgo, e la candidata, la rivale dei repubblicani, Rachida Dati, che in questi ultimi giorni, secondo alcuni sondaggi, addirittura veniva data in testa. Così non è stato, la Hidalgo ha ottenuto il 30%, la Dati ha ottenuto invece il 22%. Il dato importante è che quello che sottolineano molti media nazionale e che in Francia è tornata l'opposizione destra-sinistra, che era stata un po' sbaragliata con l'arrivo di Macron, questa figura nuova, come è stata più volte definita, che aveva un po' rimescolato le carte. Sparigliato le carte, certamente, mi sembra una giustissima osservazione. Questa è la fotografia che ci consegna Danilo Ceccarelli. Grazie mille, Danilo. Buona giornata, grazie, buon lavoro. Questo invece è l'ordine che mi consegna Gianmarco Ferronato. Usuale preludio ai titoli di coda e ringraziamenti. L'appuntamento è per domani, ore 16. Un saluto da Gianpaolo Musumeci.